Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo già parlato forse un paio di mesi fa di mobile health, cioè di assistenza medica a distanza. Per esempio, ci sono degli studi secondo i quali in Italia si potrebbe già risparmiare oggi circa 3 miliardi all'anno applicando queste tecniche di mobile health e migliorando anche un po' il servizio. Ma è soprattutto pensando al futuro nel quale ci saranno moltissimi anziani e la vita sarà anche più lunga, che questo tipo di applicazioni potranno diventare cruciali e fare soprattutto la differenza tra un'assistenza sanitaria sostenibile economicamente e una che potrebbe non esserlo. Basta ricordare che tenere un paziente in osservazione in ospedale, quindi per misurargli la pressione, facendogli però occupare un letto, costa centinaia di euro al giorno, se va bene. Ebbene, mentre il mondo della medicina si interroga su tutti questi scenari, c'è un fenomeno emergente che forse viene anche da un'altra cultura, probabilmente quella del fitness, adesso lo capiremo, e che però sembra andare incontro a queste esigenze, a queste sfide di cui abbiamo parlato. Parliamo in pratica di un fiorire di accessori per smartphone che permettono di misurare un po' di tutto, pressione, glicemia, eccetera, eccetera. Ne parliamo con l'amico e collega Enrico Pagliarini, che ha dedicato uno dei suoi 2024 recentemente proprio a questo tema, come dire, arrivando primo per poco, perché ci stavo lavorando anch'io. Ciao Enrico. Buonasera Maurizio, buonasera agli ascoltatori. Sì, mi sono occupato di questo fenomeno che potremmo mettere sotto il cappello della e-health, okay, quindi la sanità elettronica digitale, all'interno del quale c'è anche la mobile health. Ma direi, potremmo citare anche un fenomeno molto, molto divertente, e qui poi mi leggo a quello che tu hai detto, che si chiama Quantify Self, cioè tutte quelle tecnologie che ti permettono di misurarti, un po' come facevamo con la bilancia. Uno tutti i giorni magari si misurava con la bilancia classica e segnava il peso. O quelli che vanno a correre, no? Si tengono il tempo e lo misurano, esatto, con grande quindi, precisione. Diciamo, molte cose che già noi siamo abituati a fare nel mondo analogico, il mondo digitale ci permette di farlo in maniera più strutturata, più precisa. Facciamo anche alcuni... più semplice, più cioè, veloce, più... no? Esattamente, esattamente. Allora, facciamo alcuni esempi. Ci sono degli orologi che hanno magari un ricevitore GPS e noi andiamo a correre. Quando arriviamo a casa, o li colleghiamo con il nostro tablet o il nostro computer, oppure anche via wireless, abbiamo la mappa del percorso che abbiamo fatto, quanto veloci siamo andati, magari che pulsazioni abbiamo avuto durante il percorso. E se noi tutti i giorni ci misuriamo, beh, naturalmente creiamo una mappa completa, ma anche una mappa di dati su quello che noi facciamo. Vale la stessa cosa per bilance digitali, oppure stanno nascendo. Ci sono già in commercio qualche esempio di questi gadget, chiamiamoli. Ci sono così dei braccialetti che possono assomigliare a un orologio. In realtà non sono un orologio, sono braccialetti che noi teniamo tutto il giorno, che ci misurano la pressione, il battito cardiaco, quando dormiamo, come dormiamo. E noi in questo modo ci misuriamo, e misuriamo in maniera anche evoluta. Un po' complesso magari misurarci mentre dormiamo e quanto dormiamo. Insomma, la qualità del sonno, ad esempio, è una cosa che possiamo tracciare con questi sistemi, ma è un po' complicato se lo dovessimo fare nel mondo analogico alla vecchia maniera. Certo, dovremmo avere certo una persona di fianco che ci monitora, invece. Allora, stanno nascendo questi strumenti che sono in effetti strumenti anche molto divertenti, che in effetti stanno andando incontro ad una serie di esigenze tipiche del mondo sanitario. Tanto parliamo di oggetti, ecco, mi sembra importante dirlo, che costano attendere pochi euro, sì, forse ci sono, adesso... Allora, ci sono anche dei misuratori di pressione o di glicemia che costano alcune decine di euro, meno di 100 euro. Comunque parliamo di strumenti che costano attorno al centinaio di euro, insomma, non strumenti troppo costosi. Strumenti che, collegandosi a un computer, raccolgono una serie di dati e ci restituiscono una mappa molto dettagliata della nostra una attività fisica. Una serie storica fisica molto precisa, esatto, per esatto, esempio, esatto, non so, della nostra pressione, che è un tipico esame che possiamo svolgere da remoto e che potrebbe essere anche però richiedere un certo tot di attrezzatura. Ecco, ma il mondo della sanità si è accorto, allora, di questa roba? Sì, se ne sta accorgendo, però, per due motivi. Primo, quello che citavi tu, cioè abbiamo problemi di costi e alcune cose le possiamo fare al paziente in autonomia. I medici. Allora, i medici possono essere collegati con piattaforme dove vengono inseriti questi dati. Quindi magari io faccio l'esempio classico del mi provo la pressione tutti i giorni, io posso vedere questi il dato storico, ma posso anche condividerli con il medico. Autorizzare qualcuno, il medico, esatto. E questo con dei sistemi che ci sono già oggi, Facebook, sì, per sì, intendersi. Sì. Non sarà Facebook, ma ci sono le aziende che tipicamente producono questi sistemi, hanno delle loro piattaforme che io posso mettere a disposizione anche del medico. Perché il medico può fare delle analisi sui pazienti molto più dettagliate, perché un conto è provare la pressione una volta alla settimana o anche al giorno. Oppure affidarsi al paziente, ma il paziente magari si sbaglia, si dimentica. Beh, con questi strumenti abbiamo qualche certezza in più. Poi, certo, l'errore umano può sempre esistere. Quindi studiare un paziente in modo più preciso e poi, diciamo, delegare anche una serie di attività che francamente sono piuttosto semplici e forse invece liberano competenze che magari possono essere utilizzate meglio. Se pensiamo al mondo della sanità. Ecco, e naturalmente da tutto questo viene fuori un'immensa mole di dati e come sempre quando c'è un'immensa mole di dati ci sono delle potenzialità notevoli in termini per esempio di studi clinici, questa per dirne una, ma poi c'è anche un grande punto di sensibilità e questi sono dati sensibili per definizione perché sono dati legati alla salute. Sì, diciamo, il lato positivo è che se io ho una popolazione che costantemente tutti i giorni si misura la pressione e questi dati possono essere condivisi dalle strutture mediche, beh, naturalmente io ho un monitoraggio molto preciso, molto aggiornato. Faccio l'esempio della pressione, ma poi gli esempi possono essere decine. In America ci sono 11 milioni di americani che misurano la glicemia con un metodo del genere. E sono ancora pochissimi, però ci dà alcuni segnali di quello che succederà. Allora, è chiaro che l'aspetto negativo è questi dati, come verranno utilizzati? Perché certo, se le strutture sanitarie, se il sistema sanitario utilizza questi dati per fare studi, per fare analisi, per statistiche eccetera eccetera, ma anche per intervenire, però è evidente che come stiamo vedendo anche in questi giorni mettere su internet molti dati, beh, questo può creare anche dei problemi. Grazie Enrico Pagliarini. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.